Perché indisponibile chi mi doveva fare il collegamento e ancora non si è liberato. Ho procurato però lo spinotto a 6 pin e ne dobbiamo, ho capito, collegare solo 4, lasciando fuori i tasti di avanzamento dei canali up, down e un altro. Ho trovato già lo schema e appena si è liberato l'anello già me lo fa. Mi controllo al volo, il segnale è mio, come ti arriva, gli apro tutto il resto. Bene, mena, l'aria è rimasto sempre così. Va bene, oggi ci sentiamo, magari anche più tardi, se ne voglia, adesso un po' in ascolto io. Anch'io, ho finito di cenare adesso che sono rientrato dal lavoro da poco. Thank you. Spero di no,

con gente che si arriva tutta in riga, riprendi peso, forse non è la scheda video, ma non è così. Tutto tanto il monitor esterno, e mi dava la vita tutta bella, della pannello. Avevo fatto un PC che ho io, tanto un PC vecchiotto. Tranquillo, se non te l'avevo detto, qua già ho avuto un paio. mafia, adesso lo sto cercando e vedo che sono qui. Midland 747. Quanto è andato a cenare Eugenio? E Luca mi sa che sta aggiustando il computer. Io son qua. Cambiato lo sistema, tanto quattro la prova, c'era, perfetto. E adesso mi prendo un antidolorifico, però questo mi sta venendo il dolore. Sta venendo il dolore, non mi piace. Sentita, purtroppo non c'è ancora quei livelli, è maledetto. Io non sono un ciampino. No, sono bravi, siete ciampino, lo dico. È maledetto perché se uno può tenere il cuore è doloroso, eh. È dolore il tuo dolore, quello che ho fatto io non è semplice, mi sono proprio i punti in bocca. Mamma mia. E vabbè, però ho fatto questo bene, ti ho preso nell'estate, non ho finito, dai. Però i tempi sono lunghi. Se vuoi stare bene, io avevo le mal di denti, ma non è così, e poi mi sono fatta. Troppo tardi mi sono, vabbè, lo dico, c'era un cash, mi sono messi da parte, piano piano. Abbiamo riso, non sto la fatica. Quindi non apparecchio c'hai, Luca? No, non apparecchio. Non caro, sono le viti. Ho capito l'impianto, io l'ho fatto a un dente, così me l'ha fatto la vite e tutto quanto, mi ha aperto tutta la gengiva il tempo fa. E per farne uno, 1800 euro, ne ho fatto 7, quanti costi? Caspita, un botto di soldi sono allora. Fatti conto, dai 1500 euro ho fatto, fatti conto, quanti soldi sono? Cavolo, una fortuna ci vuole allora. Io penso che mio figlio c'ha l'apparecchio, già da 3 anni e ancora ce l'ha, domani deve andare per il controllo. E in totale mi era venuto roba di 4.500 e gli hanno tolto 4 denti per praticamente tirare tutto indietro perché ce li aveva troppi in avanti, capito? Però quello che stai spendendo tu è cazzo paurosa come cifra, eh? Anzi, secondo me mi hanno chiesto intorno ai 22.000, 24.000 me l'hanno chiesto. Aspetta, però quelli una volta che li metti sono fissi, capito? Come se fossero i tuoi. Esatto, sì, tutti sono, tutti completi, non è che c'è qualche spazio, sì, vabbè, certo. E a me mi costano intorno a 10.000. Comunque quello è un bel sacrificio in termini di, prima di tutto, sofferenze, perché comunque quando ti aprono per metterti tutta quella roba, insomma, non è una cosa semplice, perché poi devi prendere l'antibiotico, non puoi mangiare, eccetera. E poi anche sacrificio in termini economici, capito? Perché costa un sacco di soldi. Esatto, proprio. Hai detto giusto, è così. E allora poi sì, sono a vita, Sono a vita, grazie a vita. Ma poi ho visto quando me li ha piantati, ho sentito un cricchetto, me li metteva, Non me li ha puntati con trappola, con cricchetto a vita, come se stesse a vita una ruota di macchina uguale. Cazzo, un vicino non è che sai che avevi. Esatto. Tanto fosse solo metti, fatti già per levarne altri 2, lasciate le fare, e poi sicuramente mi leverai tutti. Mamma mia, no, lunedì, perdono, è il 10 febbraio. La tua, e poi sicuramente mi fa la polizia, dei denti. E fa tutto completo. Ma lui mi fa tutto, ah, io non rimane sai su chi devo dare. Vabbè, tanto un cazzo, cavolo. Quanti di lacrime guadagna lì, che maniaci. Li fanno i soldini, non so come noi dobbiamo fare sacrifici. Sì, a tu, guarda, ne ho 3 volte tanto. 3 volte tanto. Ci vogliono 3 volte. Questo mi ha permesso una mano, sulla casa in Pugliese a Maria. Guarda che c'è troppa disparità, vedi? È vero. Purtroppo sì. Vabbè, Aldo. Loro hanno studiato, non sono più di soldi. Per l'evità di danno potete fare un come ci metto 10 minuti, un dollaro di più, 120 euro. E invece per l'operazione di un dente 100 euro. Ma non è neanche quello il ragionamento. Il dente è studiato. Se riesci a cazzo è un maglio. insomma, non è quello che non capisco, è che c'è troppa disparità nella vita. Cioè, come ti faccio bene, tu puoi il caffè pure mai a me. Ora che tutti i bambini di Nadia devo tirare un po' di gioco. Devo essere una cruella, ma di una parte si può come. Le cose che piace a ricchi e altri piace pure a me. Thank you. davvero ci vuole anche lo spazio per Tinelli. Io non mi sono sacrificato, io ho incastrato tutto nel mobile e c'è la cucina a portata di mano, quindi addirittura l'alimentatore l'ho dovuto mettere sopra sui pesi, siccome c'è l'attacco per la cappa, no, della cucina, e quindi lì ho messo, ho collegato l'alimentazione, i fili scendono dietro ai pesili, poi ho fatto un forellino sul mobile e mi entrano dentro, capito, e l'ho collegato alla radio, e poi in serie ci ho collegato uno smitter, capito, per controllarmi la potenza e le stazioni dell'antenna, una basetta piccola piccola io ho qua. Non lo so, si è stufato, ha mollato un po' e magari già rientrerà, perché da parecchio che non lo sento Giulio, e lui lo sentivo bene da lì. Poi sentivo anche Gianni, doppio rum, a Bonorva, poi sono salito a Giave e parlavo sempre con Claudio dalla macchina e con 5 watt, capito, l'antennino corto, perché se li levate già arrivi, capito? Claudio riusciva a tirarmi, capito, gli altri non mi sentivano, invece Claudio che ha una strumentazione ovviamente più avanzata delle nostre, riusciva lui a tirarmi fuori, capito, e ci parlavo tranquillamente da Giave, da Bonorva con lui. Metri. 45 caspettina. Cioè, era bello fatto, ma è la zona, soprattutto lì, tutta la zona di Serrasecca, Carbonazzi, cioè una bella zona aperta, soprattutto da lì vedi tutto il mare, pure. Dove adesso? Lui, anche alle spalle, lui passa oltre, lui arriva tranquillamente a Ozieri e tutta quella zona lì, dove era sino a Potosò e oltre pure. Ci sono sistemi montuosi anche abbastanza alti, oltre 600-700 metri pure di altitudine, di montagnette che ci sono in quella zona lì, di Etno, eccetera. Sono tutti paesi che sono intorno ai 600-650 pure. Profili, sì. No, vedo solo per ucciso Salto? Quello virtuale, no, a pagamento. Ho capito, è certo. Ho capito, no, a me non... Chissà perché non mi ha mai attirato questo Facebook, mai, mai, mai. Sì, vabbè, non ti sei perso niente, Marco. Davanti a tu. Mi chiamo tu te, al... telecomando dietro al letto, aspetta. Giga, io ho bracciato la mappa e mi ho schiacciato, poi mi cavo a terra. le 7 no, le 8 no, le 9 neanche e le 6:10. Perché poi ne ho avuto i devotivi un sacco io, ma un sacco veramente, poi ho avuto adesso non ricordo se altro, ma cavolo erano i primi che costavano prima quei telefoni, il Samsung, adesso non mi ricordo il modello esatto, e ho avuto un bel. Poi io li riparo, vedi un po', leggiamo entrati di questi telefoni là. No, questo già è un ottimo telefono, quando appena è uscito un anno fa, questo è uscito, tu andavi a Mini, a volte ce l'avevano i cartelli grandi, no, che lo pubblicizzavano e costava lo stesso 1100, 1000 qualcosa, capito? E poi dopo 3-4 mesi era sceso già a 850, adesso penso sia intorno ai 700. Sì, a me è sempre piaciuto il momento, è bello, lui è preso tutto. Ma quando sono troppo grandi è un casino, no, troppo grandi non lo voglio. Non perché fastidio, ma siamo andati a tutto, si sarà dormito. Comunque va lì e diventa passato. Si è preso Rocky, quello è già funziona subito. Sì, sì. Casino, io so cos'è il caso, ma se ne va via l'anestesia, boh. Si prende forse la fidrolifica. L'altro giorno mi è arrivato, l'altro giorno, una settimana fa, mi è arrivato un messaggio, torna in Wind e mi facevano 100 GB, telefonate illimitate, 100 SMS che non te ne fai niente perché non li usi, in più lui ha avuto la possibilità di passare al 5G, solo che lo dovevo fare entro il 19 di gennaio, me ne sono dimenticato, non ho guardato la data e quindi quando sono andato a vedere l'offerta ho detto cavolo scaduta. E adesso non credo che me ne rimandi, non capito, perché io ho ancora il 5G, non lo usavo, io sono sempre in 4G perché ho che da mobile, capito, perché mi costa poco e pago sì 99 con Kena e quello era 7,99, l'offerta era 1 euro in più e avrei avuto anche la possibilità di passare a 5G, che adesso la Sassari è quasi all'80% tutta coperta come zona dal 5G, capito? Ecco, è un bel giorno, non ho sentito l'audio. Fumi, battagliando, parlando di telefoni, stiamo con Luca. Ho sentito l'audio, ma ero in bagno un attimino. Chissà qua. Quello era sto audio, un attimino, Xiaomi. Va bene, ce l'avevo più di un anno, ma va bene, non mi posso lamentare, non ho avuto mai problemi. Sì, sono ottimi lo stesso, c'era un mio collega, quello Xiaomi, sono cinesi, ma già vanno bene. E mia figlia c'ha Huawei P10 Lite, ce l'ha da un sacco di anni, adesso non lo fanno neanche più, funziona ancora bene, capito? Va bene, non ho detto nemmeno problemi. Diciamo che mi sei incappato a tantino per cambiare il mio faro. L'ho pulito col compressore perché c'è la colpa. Quanto più. Sì, però col compressore l'hai pulita. Un po' di aria gli ho dato perché mi rimaneva il volume incantato. Ed era la polvere. Sì, può essere, magari l'hai sbloccata con la...